Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Flavia Mastrella e Antonio Rezza per parlare della loro antologia a Roma, al Teatro Vascello, dal 17 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020 con Photo Finish, Bamut e Anne Lampe. Raccontiamo questa nuova residenza al Vascello? Sì, viene dopo il Leone d'Oro che ci ha dato un'altra possibilità di forma. Abbiamo lavorato a uno stage sul bacio e abbiamo fatto una performance con la forma del teatro totale, è stato molto divertente, quindi ci trova abbastanza frizzantini questa nuova iniziativa. Come mai la scelta di questi tre lavori? Questi sono i lavori più forti, uno è del 2003, Bamut del 2005 e Anne Lampe dei giorni nostri. Tutti hanno un'intuizione politica forte. Il momento storico ce lo consente, okay. Photo Finish è il primo lavoro che abbiamo fatto coinvolgendo le persone già nel 2003. È un lavoro che si articola molto comico, c'ha un rapporto forte con la gente che sta in platea, tutti vengono coinvolti. Sono tre lavori molto complessi, con tanti oggetti, c'è anche un attore nuovo, oltre al nostro classico Ivan Bellavista. Poi ci sono tutti i ragazzi, gli anelanti, insomma diamo un po' una mossa a tutte le cose come sempre prima di fare un nuovo debutto. Semplicemente perché erano quelli che mancavano a più tempo a Roma, quindi Photo Finish e Bamut mancavano da 5 o 6 anni, poi Anne Lampe perché è l'ultimo, è una scelta con calcolo, non è molto esperta nel sentimento ancora da noi, che però pur essendo radicato in ogni nostro gesto, certe volte lascia spazio all'opportunismo bieco, anche se è un opportunismo autoreferenziale, quindi a un livello superiore rispetto all'opportunismo a cattone. Circa un anno che non ci sentiamo per i vostri lavori, che è successo nel frattempo? Ci hanno tolto lo spazio, quindi diciamo ci hanno un po' limitato togliendoci lo spazio, infatti il lavoro nuovo verte sul ridimensionamento. Quest'ultimo anno, devo dire, è stato tutto un correre dietro alle circostanze, perché il fatto che ci hanno tolto lo spazio della Divina Provvidenza ci ha portato a fare delle esperienze estreme, tipo andare alla regione, parlare con i sindaci vari che si sono susseguiti in questi pochi mesi, perché il comune è commissariato, cioè ci ha fatto perdere un sacco di tempo questa storia. Mm-hmm. E infatti debuttiamo col nuovo in ritardo rispetto alla nostra media. Noi non è che ci lamentiamo, noi siamo dei combattenti, quindi non... Certo. Però è stato tolto all'indomani del Leone d'Oro, penso non sia successo mai a nessuno nella storia, la nostra città, il comune di Nettuno ci ha tolto, scippato lo spazio dove lavoravamo, per una presunta inagibilità, ma la cosa grave è stata non offrirci nessun luogo per continuare la nostra attività, dopo quello che abbiamo fatto noi in 35 anni per la nostra città. Quindi questa è una ferita che non si rimarginerà mai, perché io non voglio che si rimargini, e però ci ha dato uno stimolo per il nuovo spettacolo che doveva debuttare a ottobre, ma purtroppo per questa violenza subita, per questo abuso subito, è stato spostato all'anno prossimo. Perché è uno spettacolo sull'abbandono del luogo, quindi ringraziamo i nostri carnefici. Noi non so quanto possa interessare questo fatto all'opinione pubblica, interessa chiaramente a noi, e io metto sempre l'interesse individuale sopra quello della collettività quando si parla di arte disinteressata, non sovvenzionata. Noi non abbiamo mai preso soldi pubblici, ci viene tolto anche lo spazio, è grave perché per noi non è un problema, perché ci rafforza il nostro paradosso. Però non deve accadere, noi lo divulghiamo quello che è successo perché è una vergogna, però non deve accadere ad altri, insomma. Perché non si offra uno spazio sostitutivo a chi ha fatto tanto gratuitamente per la sua città, chi ha portato l'immagine della sua città fuori. È veramente un paradosso che per noi ben venga, ringraziamo veramente chi ci ha imposto questa condizione, però non vogliamo che accada ad altri, perché laddove non viene difeso nemmeno rifiuti i soldi dello Stato, non è un buon segnale. Noi rientreremo lì perché abbiamo fatto la richiesta di usucapioni, sarà la nostra ambasciata all'estero, perché ormai i rapporti non con i cittadini di Nettuno, ma con le varie amministrazioni che si succederanno sono ormai chiusi per sempre, perché è stato troppo brutto quello che è successo. E lo dico con ironia sprezzante. È stato singhiozzo, da una parte entusiasmante, perché abbiamo trovato un altro luogo ad Anzio dove provare, ci hanno offerto luoghi da tutta Italia, per solo il comune della mia città non ci ha offerto nessun luogo, ma ci è stato offerto dal Gardi addirittura un palazzo ad Urbino, ci è stato offerto dal Kismet a Bari, un luogo bellissimo, Ferrara, Milano, Napoli, Roma anche, però noi andiamo via da qui quando lo decidiamo noi, quindi l'ultimo anno è stato all'inizio un po' di spaesamento, perché quel luogo, la ex Divina Provvidenza, è come se fosse un appendice del mio corpo, quindi mi manca come può mancare una persona, però poi ci siamo adattati alla nuova situazione e sta tenendo uno spettacolo clamoroso, che dalle difficoltà, se sei tecnicamente dotato, nasce la virtù. Tutto non accade a caso. Quindi adesso stiamo provando un nuovo spettacolo, le prove aperte sono già aperte a tutti e verrà un'opera molto dirompente, sicuramente una delle più significative insieme a tutte le altre che già hanno significato per noi. Ecco, proprio per poter seguire le prove, ci dai tutti i vostri riferimenti per saperne di più? Le prove aperte si svolgono ad Anzio, quindi basterebbe, per chi volesse segnalarsi su Facebook oppure su rezzamastrella@hotmail.it, automaticamente chi si segnala, chi scrive, viene chiamato a vedere le prove. E allora ricordiamo l'antologia Rezzamastrella a Roma, Teatro Vascello, dal 17 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020, con tre spettacoli: Photo Finish, Bamuz e Anelante. Il 31 facciamo anche il Capodanno lì con lo spettacolo, con Bamuz e poi l'Asta al Buio. È una data molto, molto, molto ambita, e poi proseguiremo la nostra tournée mozza, chiamiamola tournée castrata, chiamiamola tournée eunuca, per quel che ci è successo, ma la proseguiremo anche altrove, a Prato, a Milano, a Torino, a Bologna, a Cesena, a Modena, a Bari. Saremo insomma presenti anche altrove. Un abbraccio, no? In bocca al lupo, ci vediamo al Vascello. Grazie Federico. Grazie a voi, grazie, ciao a tutti, ciao ciao. Con Roberta Nicolai, direttrice artistica della 13ª edizione di Teatri di Vetro, Festival delle Arti Sceniche Contemporanee, dal titolo Oscillazioni, a Roma, Teatro India, e ad Ostia, al Teatro del Lido, dal 14 al 22 dicembre 2019. Roberta, ben trovata. Grazie, buongiorno a tutti. Descriviamo cos'è, per chi non lo conoscesse, Teatri di Vetro. Sì, è un progetto artistico ormai che ha al suo centro appunto questo claim che ha la durata di un triennio, Oscillazioni, e vuole indicare un disequilibrio, abbandonare quella zona di comodità della convenzione teatrale per mettere sia gli artisti da una parte sia gli spettatori dall'altra in un equilibrio un po' più instabile. In maniera semplice, non ci sono solo spettacoli, che sono chiaramente, sono programmate anche le opere, ma a fianco delle opere ci sono tutta una serie di congegni scenici paralleli che sono nati dal rapporto tra la curatela e gli artisti nel tentativo di proprio interrogare la creazione contemporanea e a partire da un'idea artistica far sì che questa possa produrre, oltre alla sintesi poetica principale, quindi l'opera, lo spettacolo, una serie di altre zone di creazione assolutamente difformi, determinate dal progetto artistico stesso. Per essere semplice, sembra una cosa molto complessa, in realtà si traduce in maniera anche molto diretta, molto semplice, addirittura inclusiva degli spettatori. Ci sono a Ostia i progetti che coinvolgono direttamente i cittadini.

Però io dico sempre, quest'anno siamo anche attività esterna del DAMS, quindi avremo anche gli studenti, dico sempre che una cosa interessante è seguire interamente un artista. Chiaramente non posso pensare che gli spettatori, diciamo, ordinari possano stare dal 16 al 22 tutti i giorni, tutte le sere a teatro a seguirsi tutto, sarebbe chiaramente lo spettatore ideale, ma se appunto uno ha meno tempo, almeno seguire un artista interamente, cioè che ognuno di loro è programmato con 3, 2, 3, 4 piani, e se si riesce a seguire interamente un artista, credo che ci si porta a casa qualcosa. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti per saperne sì. di più? Sì, c'è il sito teatridivetro.it, c'è un'attività Facebook e Instagram abbastanza compulsiva, quindi le informazioni ci sono tutte, si può scrivere per prenotare, consigliamo la prenotazione, intanto perché alcune piante sono ridotte, quindi alcuni di questi spettacoli prevedono un numero limitato di spettatori, quindi consigliamo per tutti la prenotazione a promozione@triangoloscalenoteatro.it. I prezzi sono al solito chiaramente molto molto politici, e quindi insomma non c'è la barriera data da un prezzo del biglietto assolutamente esclusivo, tutt'altro. 13ª edizione di Teatri di Vetro, Festival delle Arti Sceniche Contemporanee, dal titolo Oscillazioni, ad Ostia al Teatro del Lido e a Roma al Teatro India dal 14 al 22 dicembre 2019. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Roberta Nicolai. Un abbraccio, grazie. In bocca al lupo e a presto, Roberta. Grazie. Con l'autore e attore Nicola Russo per parlare del primo studio dello spettacolo Christoph o il posto dell'elemosina. A Roma, Carrozzerie Not, 20 e 21 dicembre 2019. Nicola, ben trovato. Salve, ciao. Ci parli di questo lavoro? Sì, Christoph o il posto dell'elemosina è l'ultimo testo che ho scritto. Parla di un sans-papier di origine tunisina che ho conosciuto a Parigi nel 1995, quindi insomma da diversi anni fa. E io avevo 19 anni e ho incontrato questo ragazzo che avrà avuto 27-28 anni, quando aveva un 9-10 anni più di me, ecco, e che viveva a Parigi da una decina d'anni senza permesso di soggiorno, quindi da clandestino, e viveva facendo l'elemosina. E non so bene cosa sia successo, ma questo è stato un incontro molto particolare, perché ci siamo conosciuti per strada. Lui ha voluto il mio indirizzo e io sono partito dopo un paio di giorni, e nell'arco di 2-3 mesi questo ragazzo mi ha scritto una trentina di lettere, nelle quali c'è un mondo incredibile, che è il mondo interiore di questo clandestino che voleva essere uno scrittore, che aveva una vena poetica incredibile, che aveva anche una discreta cultura e viveva la contraddizione poi della sua posizione: non poteva uscire, non aveva un permesso di soggiorno, non poteva lavorare, e quindi in queste lettere che lui mi ha scritto mi ha raccontato il suo mondo interiore, e io dopo 25 anni le ho riaperte e mi sono trovato tra le mani un materiale abbastanza straordinario, e ho scritto un testo che parla di lui. Questo. Com'è capitato questo rimettere mano alle lettere? Un po' per caso, devo dire, e questo fa proprio parte integrante del racconto che faccio e del testo, nel senso che queste lettere io me le sono portate dietro, come spesso capita nella vita, no? Che ci portiamo dietro dei ricordi, delle cose, no? di un periodo lontano, quasi meccanicamente, no? Come una zavorra che ci trasciniamo dietro. A volte alcune cose si perdono negli anni, altre cose no. Queste lettere, ho sempre avuto la coscienza che fossero di un materiale molto molto denso, molto particolare, e devo dire che a suo tempo non avevo colto la profondità di questi messaggi, che così li ho vissuti dopo 25 anni. Mi sono sembrati dei messaggi che questo ragazzo mi ha voluto mandare a distanza anche di così tanto tempo. Mi è sembrato quasi che mi consegnasse del suo materiale, dei suoi scritti, delle sue idee, e che sfogasse in questo carteggio, un bisogno artistico che non poteva sfogare altrimenti, perché viveva questa condizione di clandestino in un modo molto particolare, nel senso che lui poi passava queste giornate a fare l'elemosina, oppure andava nelle biblioteche comunali a leggere, era coschissimo, andava a vedere i film quando trovava i film gratis da vedere, e aveva una vena artistica incredibile e voleva scrivere, ma si vergognava perché non si sentiva all'altezza socialmente, no, di essere un artista. E tutto questo materiale dopo 25 anni mi ha fatto pensare di provare a dargli una voce. Le persone che vivono in questa condizione, no, i clandestini, persone che non hanno un permesso di soggiorno, noi ne parliamo sempre perché sono legate a determinati problemi, problemi pratici, cose assolutamente importanti. Raramente si parla di queste persone da un punto di vista altro, no, di quello che provano, di quello che hanno in testa, di quello che hanno nel cuore, di quello che hanno nell'anima. E con questo lavoro ho cercato di fare questa cosa. Che personalità c'è in quegli scritti? Molto complessa. C'è una persona che si esalta per delle piccole cose della vita, che ha dei sogni al tempo stesso che possono sembrare molto piccoli, come soltanto l'idea di guardare un film a letto in pigiama, e al tempo stesso delle cose che si aprono verso orizzonti incredibili, come anche verso orizzonti di grandissima depressione, delle poesie che lui scriveva molto forti. C'è una persona che sicuramente aveva una cultura visiva incredibile, perché queste lettere sono anche degli oggetti che poi nello spettacolo, nello studio, sono proiettati a un certo punto, sono degli oggetti anche molto interessanti, proprio per come le pensava, per come le scriveva. Ci sono dei disegni, piccoli oggetti che lui infilava dentro le lettere, le spediva. Quindi c'è una persona che ha come fossero tanti caratteri tutti insieme, e ancora li devo scoprire tutti, ecco. Senti, ci lasci dei riferimenti per saperne di più su questo studio? Sicuramente sul sito di Carrozzeria Not c'è tutto il materiale che serve, oppure sul sito della mia compagnia che si chiama monstera.it, questo. Cristoffo, ho il posto dell'elemosina, un primo studio a Roma, Carrozzeria Not, 20 e 21 dicembre 2019. Un saluto e un ringraziamento all'autore e attore Nicola Russo. Un abbraccio, in bocca al lupo e a presto. Grazie, a presto, ciao. Con Massimiliano Frateschi, autore e attore dello spettacolo Ismael, in viaggio dalla Siria, a Roma, all'Off of Theater, 17-18 dicembre 2019. Massimiliano, ben trovato. Ciao, buongiorno a tutti. Ci racconti di questo lavoro? È il mio secondo testo, ed è tratto da una storia che mi raccontò un amico a casa. Lui è un ragazzo che si chiama Adnan, che è scappato dalla Siria ed è qui in Italia in asilo politico. È stato qua per anni lavorando appunto con l'ONU per cercare di farsi dare prima del rifugio e poi un asilo, e ha vissuto delle situazioni che sono le situazioni quotidiane che vivono gli extracomunitari, purtroppo nel 2019. La cosa che a me ha colpito è il modo in cui lui ha detto questa cosa qui, mi ha raccontato questa storia, in quanto era molto sciolto, se possiamo usare questo termine, bevendo della vodka, seduti nel salone, e mi ha raccontato queste cose con una normalità e con una calma serafica. E come io posso raccontare a te, dico: ah sì, no, a Bari c'è la pioggia, qui c'è le bombe. Ah sì, sì, ci sono le bombe. Questo era. Quindi a me mi ha colpito intanto questa cosa qui. Colpito molto il fatto che lui, che fosse siriano, di una città vicino a Damasco, parlasse in italiano quasi perfettamente, con un accento romano, che era un accento arabo. Però mi faceva sorridere il fatto che lui fosse completamente integrato prima ancora di integrarsi, e non solo questo, anche i significati delle parole, che a me come autore mi interessava scoprire, perché quando viene usata la parola abusivo, o viene usata clandestino da un italiano, insomma in generale, perché sto parlando in italiano, ma da dizionario, uno conosce questo termine, ma molto spesso il significato di clandestino è il pregiudizio che noi abbiamo di quello stesso significato. Quindi se io parlo di abusivismo o di abusività, in questo senso, nella mia mente societaria, diciamo, come individuo della società, quello che mi arriva è un giudizio. Quindi che cos'è per la gente il clandestino, che è molto diverso dal significato reale di clandestino, perché se noi pensiamo che il ragionamento di una persona è che siamo tutti uguali, siamo tutti dei clandestini, siamo tutti degli abusivi. Per esempio, ti faccio un esempio per chiarificare questo concetto. Se qualcuno sta abusando di una terra, diciamo in maniera politica, ok, allora viene considerato un abusivo. Però noi siamo degli abitanti della terra di cui tutti quanti prendiamo le stesse cose, cioè questa terra, questo pianeta è un po' di tutti, no? Sì. Quindi un po' quello che tende a fare questo spettacolo è a sottolineare questo gioco di significati più che di parole, che è detto da un extracomunitario, quindi da qualcuno che viene al di fuori da quella lingua, ma che ha dovuto imparare realmente il significato di quella lingua perché l'ha letto su un dizionario. Ora io faccio una provocazione, però non so quanti di noi hanno letto su un dizionario che cosa vuol dire clandestino. Io credo che nessuno si ponga il problema di leggere su un dizionario cosa significa clandestino o abusivo. Abbiamo il concetto, giusto? Sì. Una persona che arriva da fuori studia quel concetto per appropriarsene, per capire di che perché mi stanno dando del clandestino, perché io sono clandestino, che regola sto infrangendo, cosa vuol dire questa cosa, no? Sì. E quindi Adnan, questo ragazzo, che è una persona molto intelligente, tra l'altro è laureato, quindi e devo sottolineare negativamente questa cosa, uno dei motivi per cui è stato accettato è la sua laurea, che va bene, per carità, però diciamo che se non avesse avuto questa laurea qui probabilmente adesso stavamo parlando in maniera diversa, no? Quindi questo mio amico, tra virgolette, fortunato. Detto questo, il nostro viaggio insieme in questo racconto è stato un viaggio ispiratore, non solo sulla questione dei significati, ma anche sulla questione geopolitica della Siria. Quindi lui mi ha spiegato come funzionano realmente gli eserciti, come funziona realmente l'ISIS, che adesso è diventata una cosa di moda, ma stanno lì da sempre, sulle montagne, ad est. Cioè, non si sono mai posti il problema, no? Se lo pongono adesso, un po' come la causa scatenante delle cose, oppure come stiamo vivendo adesso il problema dei curdi. Insomma, politicamente e geopoliticamente ci sono delle situazioni che magari non vengono spiegate. Siccome io ne ho trovato del fascino, ho scritto una storia di fantasia ma reale, dove ho raccolto altre informazioni su altri immigrati, persone più sfortunate, persone più fortunate che sono arrivate, e ho costruito questo personaggio ironia, nel senso che è un personaggio che ti racconta qual è la situazione del viaggio che ha fatto per arrivare dalla Siria in Italia, attraversando i deserti, spostandosi da una nazione all'altra ed essendo rimbalzato, perché vado in Libano e ci sta la guerra e io che sono siriano non ci posso andare, allora ci vado da un'altra parte c'è sta la Turchia che c'è sta il mare e me ne vado, ma c'è la guerra anche in Turchia c'è sta, allora non me ne vado in Egitto che c'è sta il mare, prendo la nave e vado in Sicilia, ma no, non c'è sta l'embargo, quindi ho bisogno di documentazione europea per passare da, no? E quindi tutto questo viaggio, questa attraversata attraverso i territori confinanti alla Siria per cercare un buco dove passare è il viaggio che fanno moltissimi siriani che scappano dalla guerra, no? All'interno di questo ci sono anche delle situazioni fotografiche che sono per me importanti sottolineare, come per esempio può essere il campo di Za'atari, che è un campo profughi che è stato costruito vicino alla Giordania, dove ospita solamente i siriani o comunque in generale i rifugiati politici, ma ci sono 78.000 abitanti, quindi cioè è una città a tutti gli effetti, no? E questa cosa è un po', no, sembra la città di Batman, dice il testo, no? Perché c'è la criminalità all'interno, c'è la prostituzione, che pensarlo in un campo profughi è una cosa. E veramente io questo agli ascoltatori, poi il personaggio lo dice, ma io personalmente come autore, come essere umano, vi sfido a vedere le fotografie del campo di Za'atari. Quindi basta digitare su Google e trovate le fotografie, è una cosa imbarazzante, nel senso che è veramente stupefacente da tutti i punti di vista, anche architettonico, cioè è una tendopoli che si estende nel deserto, sembra un po' il Burning Man, il festival che fanno a Los Angeles, no? E quindi ci sono delle piccole chicche che descrivono un po' delle cose che forse non sempre sappiamo e non conosciamo, tutto in un mood leggero di un personaggio che è comunque ironico, che ci passa sopra e che per lui le bombe scendono giù come la pioggia. Continuerai però il suo percorso dopo le due date di Roma? Spero proprio di sì, adesso ci stiamo concentrando sul debutto qui a Roma, così come fu per La Gabbia, l'altro spettacolo, e che fortunatamente quello adesso sta girando, si spera anche che giri anche Ismail, insomma. Poi contemporaneamente noi ci stiamo muovendo con Refugees Welcome, che è l'associazione italiana con 55.000 utenti che si occupa appunto di dare una casa a questi rifugiati, e anche con loro faremo una collaborazione, quindi ovviamente a scopo benefico metteremo in scena lo spettacolo anche parallelamente in altre piattaforme, quindi speriamo anche di girare attraverso campi, insomma situazioni un po', eventi più particolari e più dedicati un po' a queste persone. Ismael in viaggio dalla Siria di e con Massimiliano Frateschi, Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Ricordiamo a Roma, all'Off of Theater, 17-18 dicembre 2019. Massimiliano, un abbraccio e a presto. Un abbraccio a voi, sottolineo soltanto, e questa cosa ci tengo a dirla, che tutto questo non poteva succedere senza l'aiuto appunto di queste tre figure che per questo spettacolo sono importantissime, che sono Graziano Piazza, che è un regista, un attore strepitoso e un amico che ha deciso di appoggiarmi in questo progetto, e Alexandros Memetai, che è l'assistente alla regia, ma a tutti gli effetti è una coregia, per cui sto lavorando su un monologo con due registi, ed è veramente bello, hanno fatto sì che questo spettacolo si moltiplicasse, e l'associazione Refugees Welcome, chiaramente il teatro, e Nobu, che è la produzione indipendente, una piccola produzione, ma che ci sta aiutando tantissimo a crescere, e cresciamo insieme a loro. Vi ringrazio e spero di vedervi presto al teatro. Grazie mille, gentilissimo. Un abbraccio, ciao. Ciao. Con l'attrice Alexia Murray per parlare di Ugo, volume 14, il comedy show a Roma, questa volta all'Alcazar a Trastevere, mercoledì 18 dicembre 2019. Alexia, ben trovata. Ciao, ben trovato anche a te, ciao. Come duopo spieghiamo cos'è Ugo e come funziona. Ugo è una serata comica, divertente. E come funziona? Praticamente è nata dall'idea di creare una situazione dove donne potevano presentare dei pezzi inediti, comici. Praticamente ogni sera è unica, per cui ci sono diverse attrici, no, che ruotano intorno a questo format, diciamo. C'è un gruppo centrale che poi però a volte si aggiunge una o una babbia, insomma, per cui è una situazione molto varia. E ogni donna porta un pezzo nuovo, per cui ogni serata è unica, ecco, e si esibiscono in cose comiche. Questa è l'idea centrale. Non è proprio cabaret, perché ci sono alcune attrici che hanno uno stile più stand up, tipo cabaret, che ne so, Colorado Caffè, queste cose così, e altre invece che sono più attrici che fanno dei monologhi, ma non è proprio teatro, per cui è una cosa nuova, interessante. Come sei arrivata ad Ugo? Perché conosco una delle attrici, Cristiana Vaccaro, che ha fondato il format insieme a Francesca Stace e altre ragazze, io dico ragazze perché siamo tutte ragazze. Siamo, ecco, tutte ragazze. Siamo tutte ragazze, e ho lavorato con lei in altri progetti, e una sera tempo fa sono andata a vedere una edizione di Ugo, e vedere queste donne sul palco che si esprimevano, poi ogni donna con la sua propria voce, la sua propria comicità, e anche nella comicità c'è anche un tono anche più profondo, una visione sulla vita, sul mondo, e vedere queste donne che si esprimevano mi ha ispirato, e ho detto ma anch'io ho qualcosa da dire, anch'io vorrei partecipare, allora ho scritto una cosa che mi stava a cuore e l'ho proposto, perché loro accettano anche proposte così esterne di persone che non fanno parte del gruppo centrale, no? E si sono riunite, hanno letto il pezzo e è piaciuto, e allora eccomi qua, mercoledì 18 alle 20:45. Tra l'altro ogni artista ha a disposizione tra i 5 e i 10 minuti, ci sono anche dei momenti musicali. Sì, ci sono dei tramezzi musicali, anche lì varia, credo, l'artista, però è una serata che include anche la musica, il canto, chitarra, pianoforte, insomma dipende un po' dall'artista che si presenta, ecco. Oh, in parte già ce lo hai detto, però volevo chiederti cosa ti aveva impressionato maggiormente, cosa ti è piaciuto di questo esperimento? Questa voglia di esporsi delle donne, di mettersi quasi a servizio del pubblico, raccontando storie a volte scomode, o no, però in chiave comica, per cui si ride ma si riflette anche, e non sono solo storie che riguardano donne, perché non è che il pubblico poi è solo donne, è semplicemente uno spazio dove le donne si possono esprimere. Poi c'erano tantissimi uomini che ridevano forse ancora di più di alcune donne che si rispecchiavano, no, nel contenuto. però mi è proprio piaciuto che si esponevano così liberamente e anche in modo autoironico. Che ne so, spesso io noto, no, la comicità inglese, gli inglesi sono molto bravi a essere autoironici, però spesso in Italia ho notato che questa cosa non si fa. Invece quella sera c'era questo aspetto di ridere di se stessi in modo leggero e questa cosa mi è piaciuta. Però allo stesso tempo esporsi. E allora ricordiamo il comedy show Ugo, volume 14, a Roma, all'Alcazar, mercoledì 18 dicembre 2019. Un saluto e un ringraziamento all'attrice Alexia Murray. Alexia, un abbraccio, in bocca al lupo e ci vediamo lì. Va bene, ci vediamo lì. Buona serata, a presto. Siamo agli appuntamenti della settimana teatrale romana e la parola passa a Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone. Allora, andiamo a vedere cosa c'è. Insomma, il teatro Kairos, il festival del teatro che non c'era, continua da un po' di tempo. Questa è la settimana per uno spettacolo che sta in scena il 19 e 20 dicembre in Vicolo Tobaggi con Antonello De Stefano. E vediamo un po'. È un recital, un viaggio negli oscuri meandri degli anni di piombo della strategia della tensione. Vicolo Tobaggi è un monologo, una ricucitura non solo per parlare degli atti dei tribunali di testimonianza dei sopravvissuti, ma una sorta di cantico del dolore. Vicolo Tobaggi sicuramente ha un riferimento al giornalista ucciso Walter Tobaggi, che è un po' uno dei simboli della lotta alla criminalità e uno dei simboli dei caduti in nome della libertà di espressione e di parola. Quindi Vicolo Tobaggi, 19 e 20 dicembre al Teatro Studio Kairos. Poi ce ne andiamo a vedere ben due cose. L'Ofos Theatre, sì, sicuramente Ismael in viaggio dalla Siria ed è Massimiliano Frateschi con la regia di Graziano Piazza, che sarà in scena questa sera, domani 17-18, all'Ofos Theatre, un ragazzo di 30 anni scappato dalla Siria, perseguitato politicamente e senza ragione, cacciato dalla sua città natale, chiuso in carcere. Questa la storia di Ismael, che si trova all'ufficio per gli immigrati a Roma e racconterà appunto da lì la sua storia. Ma l'Ofos Theatre, 20-22 dicembre, andremo anche per le lettere romane, epistolario in terracotta di due matrone sorprese alle spalle dal V secolo. Un strano, meraviglioso titolo, un'ora insieme ad Alessandro Fullin in coppia con Marco Barbieri per dar vita alla lettura di questo surreale carteggio fra queste due matrone. C'è un antefatto in realtà dietro. Nell'ottobre del 2015 un'archeologa tedesca ha ritrovato in una campagna di scavi dintorni di Tormarancia 18.000 tavolette in chiari caratteri romani. È l'unico epistolario giunto fino a noi di due matrone che si scrissero per più di 20 anni alla fine del IV secolo. Questo è il racconto. Sono Flavia e Cornelia, vivono nello spettacolo in due luoghi un po' separati, diciamo, una vive a Roma e l'altra in una città ancora non molto conosciuta, anzi sconosciuta in realtà ancora al IV secolo, cioè Mediolanum, ovvero sia la moderna Milano. Che cosa si racconteranno Flavia e Cornelia nel loro fantasioso epistolario? Lo andremo a vedere, molto interessante questo vostro lavoro, divertente, dal 20 al 22 dicembre al teatro Ofos Theatre. Domenica invece ce ne andiamo al Centrale Preneste, perché Natale su Amazon 2Z, evidente, di Matuta Teatro alle 16.30 sarà per ragazzi dai 3 agli, bambini dai 3 agli 11 anni e per le famiglie appunto al Centrale Preneste. Nell'era dell'e-commerce e i giorni che precedono il Natale sono caratterizzati da grande fermento, no? I consumatori sono in lotta per il regalo più conveniente, le città sono invase dai corrieri di Amazon che ormai sono un po' il Babbo Natale del nuovo millennio. Poi, già iniziato, ma sta in scena fino al 18 dicembre al Teatro dei Servi, Mammi di Dario Postiglione, la stagione dedicata alla drammaturgia contemporanea del Teatro dei Servi presenta questo lavoro pieno di sorprese, un linguaggio ricco e metaforico. C'è un meccanismo futuristico in cui la vicenda ha inizio e ogni tassello messo insieme in una sorta di piramide, in una sorta di concatenazione che sarà talmente ben messa che basterà togliere soltanto un mattone per far crollare tutto. E questo è quello che andremo a vedere. La regia è di Renato Civello con Mammi di Dario Postiglione al Teatro dei Servi fino al 18 dicembre. Al Teatro della Cometa, il natalizio non è vero ma ci credo di Pino De Filippo con Enzo De Caro e la regia di Leo Muscato, quindi qui insomma un bel po' di nomi forti. Fino al 12 gennaio sarà in scena lo spettacolo, sono molti gli attori in realtà. Una tragedia tutta da ridere, ci dice Leo Muscato. Siamo in una Napoli anni 80, una Napoli un po' tragicomica, in cui riescono a convivere insieme Mario Merola, Piero Daniele e Maradona. Tutto questo è l'idea che attraversa lo spettacolo, che già era quello della direzione artistica della compagnia Luigi De Filippo, che Leo Muscato ha ereditato. In scena ci sarà Enzo De Caro, attore insomma di fama che conosciamo molto bene, quindi fino al 12 gennaio, dal 20 di dicembre al Teatro della Cometa con Non è vero ma ci credo. I bambini nella sala sportiva del Teatro Argentina per andare a vedere L'albero di Rodari dal 17 al 22 dicembre con la regia di Roberto Gandini, lo spettacolo realizzato dalla piccola compagnia del Piero Gabrielli in sala sportiva appunto del Teatro Argentina, quindi un altro spettacolo per bambini interessante da vedere in questa settimana che appunto porta al Natale. Per quanto riguarda il Teatro Basilica, 18-22 dicembre, The Gravity in Between, Jeffrey Bulness, con un bel po' di attori, andiamo a vedere insomma di cosa si tratta, sembra molto interessante. Il lavoro, la coreografa è una ex solista della Martha Graham Dance Company ed è accompagnata da un compositore danese in scena, una performance include artisti che provengono da vari paesi, Stati Uniti, Danimarca, Canada e Italia, e affrontano il tema della connessione tra esseri umani da una parte all'altra della Terra attraverso gli oceani. Questo è il lavoro coreografico che viene presentato dal 18 al 22 alla Basilica di Roma, l'ex Sala 1 per capirci. 18 e 19 dicembre, lo Spazio Diamante invece, per andare a vedere Insomnia dal Frankenstein di Mary Shelley, con la drammaturgia di Lorenzo Gioielli e la regia di Marco Carniti. Si tratta di un lavoro che ben si conosce, Mary Shelley, sono 19 anni, si sveglia da un incubo e scrive un romanzo che cambia il modo di pensare di un'intera epoca, Frankenstein. Tutto sappiamo ormai di questo grande classico della letteratura, e all'interno di questa i classici del secolo futuro, cioè quattro riscritture senza paura, che Lorenzo Gioielli ha realizzato insieme ai ragazzi dell'Accademia Staff Brancaccio. Quindi questo è lo Spazio Diamante per questa settimana, ma lo Teatro Studio 1 invece, la compagnia Caruso Pagliai si presenta il 19 e 22 dicembre con Ninfamania, scritto e diretto da Emanuela Caruso con Michele Pagliai appunto, ironia e leggerezza e il dramma e la solitudine. Insieme questa giovane donna affetta da ninfomania si chiede come può attraversare gli eventi della sua vita e Luisa, la protagonista, è caricata da una assoluta solitudine. Chi resta isolato si usa per non farsi sentire e soffrire degli altri, si trova in una condizione inaccettabile socialmente, quindi è impossibile da amare persino per i suoi genitori. Questa è la problematica che affrontano Caruso Pagliai con Ninfomania, il lavoro che sta in scena al Teatro Studio 1 per questa settimana. Invece il Teatro Argentina apre con un grande omaggio a Eduardo, La grande magia di Eduardo De Filippo, firmata da Luis Pascual, che porta in scena questo lavoro in cui vengono messi in luce i vizi, i difetti dell'umanità e diventano una denuncia dei comportamenti umani e delle loro conseguenze. E la tragedia della vita con le grandi illusioni atroci e feroci è stato sempre un po' il tema di Eduardo De Filippo, La grande magia, ne è un po' una delle rappresentazioni più evidenti. Era un testo del 1948 che segnarono proprio il passaggio dalla cantata dei giorni pari palla cavitata dei giornalisti e proprio con la Napoli milionaria del 45, parlava della Napoli del dopoguerra, dell'illusione, dell'inganno, e quella risata cambia tendenzialmente di segno. Questo per andare appunto al Teatro Argentina, 18 dicembre, 5 gennaio, una grande magia sui Pasquale. Abbiamo detto di teatri di vetro, continuiamo a parlarne un po' perché questa è la settimana appunto in cui la 13ª edizione è al via. Andiamo a vedere un po' tra gli spettacoli proposti questa settimana che cosa ci viene presentato. Beh, insomma, fin da ieri sera, ma insomma, quindi continua anche questa sera, i lavori di Bartolini Baronio con la ragazza che corre, le immersioni al Teatro India e l'energia di Paolo Bianchi, l'incidente chiuso di Meno 20, il titolo della compagnia Meno 20, poi Alessandra Cristiani con Clorofilla, e i lavori di Teatro Rebis, appunto Andrea Fazzini, con Non potrai arrotolare intorno alle tue dita i miei lunghi capelli biondi. Insomma, ce n'è veramente molti di bei lavori. Carlo Massari, CNC con Beat Without Beauty, Giovanna Velardi, la coreografa siciliana che torna per appunto Teatri di Vetro, e mi piace ricordare anche Opera Bianco, Cesso Schino, Marta Michisau, To Act, To Do, To Perform, che sarà il 22 dicembre proprio al Teatro India. Questo è il Teatro di Vetro di questa settimana, direi imperdibile, poi l'elemento da non perdere di questa settimana. Io vi mando anche al Teatro Argo Studio, perché dal 19 al 21 di dicembre andremo a vedere L'Indifferenza, scritto in diretta da Pablo Solari con Valeria Perdonò, Vuni Neri e Luca Mammoli. È un lavoro prodotto dal Centro Teatrale Mammy Mo di Reggio Emilia e Teatro I di Milano, e affronta un po' questa lotta metaforica tra il progresso della civiltà occidentale e la natura bestiale e sanguinaria in cui questo progresso naturalmente si costringe a evolvere. E si tratta di fare una carezza a Leonardo e dare un bacio a uno sconosciuto, schiacciare il pulsante che lanciò la bomba di Hiroshima, è impossibile fuggire alle conseguenze delle nostre azioni. Questo è il punto di partenza che appunto affronta questo spazio-tempo allucinato e fa luce sul valore delle memorie e sull'esistenza del male. E appunto andiamo a vedere dal 19 al 21 dicembre L'Indifferenza al Teatro Argo Studio. Ultimissima cosa di cui parliamo questa settimana, Dan Said, Il cielo sopra il letto, Skylight, Lucrezia Marte della Rovere, Luca Barbareschi, Paolo Marconi. Questo è il Teatro Eliseo che da questa sera fino al 5 gennaio ospiterà appunto questo pluripremiato testo dello scrittore britannico David Hare, con questa complessa relazione tra Saverio, imprenditore per estate, e vedove dell'Italia, la sua giovane amante, insegnante in una scuola di periferia che vive una vita modesta e di quartiere. Cosa accadrà nel loro rapporto, nella loro relazione? Lo andremo a scoprire. Il testo racconta l'incontro di una sola notte tra i due ex innamorati, in una notte in cui si riaccende la passione erotica e anche la differenza ideologica. Questo dobbiamo andarlo a vedere al Teatro Eliseo dal 17 fino al 5 gennaio, 7 dicembre, 5 gennaio, e con questo, Federico, ci siamo, è tutto. Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.